Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giovedì 17 maggio. Anche oggi Giulio Caperdoni con Eclettica. Eclettica o del come creare un'atmosfera con un flusso di musica adagiata comodamente tra incipit letterari e sprazzi cinematografici. Ecco, per stilare una classifica, le 5 più memorabili fregature di tutti i tempi, in ordine cronologico. Alison Ashworth, Penny Hardwick, Jackie Allen, Charlie Nicholson, Sarah Kendrew. Ecco quelle che mi hanno ferito davvero. Ci vedi forse il tuo nome lì in mezzo, Laura? Ammetto che rientreresti fra le prime 10, ma non c'è spazio per te fra le prime 5. Sono posti destinati a quel genere di umiliazioni e di strazi che tu semplicemente non sei in grado di appioppare. Questo forse suona più cattivo di quanto vorrei, ma il fatto è che noi siamo troppo cresciuti per rovinarci la vita a vicenda, e questo è un bene, non un male. Per cui, se non sei in classifica, non prenderla sul piano personale. Quei tempi sono passati, e che liberazione, cazzo! L'infelicità significava davvero qualcosa allora. Adesso è solo una seccatura, un po' come avere il raffreddore o essere al verde. Se volevi veramente incasinarmi, dovevi arrivare prima. Questo era l'incipit di Alta Fedeltà di Nick Hornby. Find these guys, or you know, I mean, you got any promising leads or leads? Yeah, sure. I'll just check with the boys down at the crime lab. They got 4 more detectives working on the case. They got us working in shifts. Leads. Open up your eyes, you're underneath the third class seat. And your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. And feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. And now you're there and you laugh and smile so gleefully. There's an almost holy dancing in my soul, but tears on my cheeks. And life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. Life is tragic and small, 'cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. The young dear lover, she hit the ground. The summer Love Does Furnish Life, questo è il titolo del brano appena ascoltato da parte dell'Hurricane Love, estratto da The Freedom Spark, mentre in precedenza era stata la volta di Australia, dall'album che è sicuramente diventato un long seller da parte dei The Shins. Winds in the Night Away è il titolo dell'album, fin da quando è uscito mesi fa, trascinato appunto in questa vendita di lunga durata soprattutto da Phantom Blame, quello che era stato anche il primo singolo. Pensate, un album questo che è andato su billboard.com al secondo posto dopo una settimana dall'uscita, per una band che le classifiche le aveva viste sempre un po' di striscio. Quanto conta indovinare, azzeccare un solo brano? L'importante è poi riuscire a ripetersi, e questo che non è così semplice. Si prosegue con gli Stati Uniti, con una band che proviene dalla città di New York City, per la precisione da Brooklyn. Loro si chiamano Alex Delivery, sono usciti per Jack Jaguar a fine aprile con un album dal titolo Star Destroy, dal quale noi ci ascoltiamo tipicamente, e anche oggi manteniamo fede a questa tradizione di eclettica, Comad. Blank face. All better now. still distilling in the stillness of the day. Alison Ashworth, 1972. Quasi tutti i pomeriggi ciondolavamo ai giardinetti che stavano proprio dietro casa mia. Vivevo nello Hertfordshire, ma avrebbe potuto benissimo trattarsi di un qualsiasi sobborgo inglese. Il solito genere di sobborgo, col solito genere di giardinetti. A 3 minuti da casa, giusto dall'altra parte della strada, davanti a una breve fila di negozi, un supermercato VG, un giornalaio, un negozio di liquori. Niente ti aiutava a orientarti. Se i negozi erano aperti e chiudevano alle 5:30 e all'1 il giovedì e per tutto il giorno la domenica, magari potevi andare dal giornalaio e dare un'occhiata al giornale locale. Ma anche questo non era detto che ti mettesse sulla pista giusta. Avevamo 12 o 13 anni e avevamo scoperto da poco l'ironia, o almeno quella che poi compresi essere l'ironia. Ci sentivamo liberi di usare l'altalena, la giostra e gli altri giochi per bambini che arrugginivano lì, ai giardinetti, solo a condizione di ostentare una specie di distacco voluto e ironico. Il che implicava o affettare distrazione, e in questo caso si poteva fischiettare o chiacchierare o giocherellare con un mozzicone di sigaretta o con una scatola di fiammiferi, oppure sfidare il pericolo e quindi buttarsi dall'altalena quando toccava il punto più alto, saltare dalla giostra quando era lanciata al massimo della velocità o aggrapparsi al dondolo finché non raggiungeva una posizione quasi verticale. Se in un modo o nell'altro riuscivi a dimostrare che in questi divertimenti infantili potevi rischiarci la pelle, allora giocarci diventava ok. Anche questo era l'incipit di Alta Fedeltà di Nick Hornby. And also, let's not forget, dude, that keeping wildlife, an amphibious rodent for, domestic within the city, that ain't legal either. What, are you a fucking park ranger now? No, I'm just trying to offer... Who gives a shit about the fucking marmot? We are sympathizing here, dude. Fuck sympathy. I don't need your fucking sympathy, man. I need my fucking Johnson. Have you heard? Never heard.